la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buongiorno cari ascoltatori, in questo martedì 3 di febbraio 2015, 16, 30 primi, 58 secondi, siamo in diretta e un saluto da Oscar Giannino, grazie che ci sente anche scaricandoci dal portale di Radio 24, l'indirizzo è sempre versione di Oscar, @radio24.it e vi ricordo il numero di telefono per intervenire e darci la vostra opinione sul tema che subito vado a presentarvi, 800 24 0024 e il numero di telefono 349 238 6666 per gli SMS. Ecco, prima di dirvi il tema della giornata, due osservazioni molto brevi. La prima, so che non fa notizia, però consentitemi di ricordare ogni tanto che continuano ad accadere in Italia cose terribili, cose tragiche, per via della crisi, della difficoltà economica, della perdita di denaro e dell'incapacità di molti a quel punto di sobbarcarsi ai propri impegni di fronte al fatto di non avere più denaro. E quindi io dedico la puntata di oggi, siccome non fa più notizia, a MB. Chi è MB? È un sessantenne che si è impiccato stanotte a Mestre, è un titolare di una piccola azienda di pezzi di ricambio per auto nel settore dell'automotive, e stressato dalla crisi si è impiccato. Continuano questo genere di suicidi alla crisi, malgrado siano passati anni e anni, e ogni tanto, secondo me, facciamo bene tutti a ricordarlo, e quindi lo abbraccio dove sta MB, e soprattutto oltre a lui naturalmente al suo ricordo tutti quelli che come lui hanno fatto questo gesto estremo e i loro familiari, nei confronti dei quali lo Stato, sapete la mia opinione, ve la ricordate dal 2012 oramai, secondo me è molto inadempiente, visto che continuano ad andare nemmeno ai funerali. Però detto tutto questo, sapete che oggi, secondo osservazione, e soprattutto secondo le cronache imperanti, la giornata, come giusto, del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella. Non mi soffermo su questo, vi do semplicemente una mia breve opinione. Un discorso, come devo dire, come me lo aspettavo, e la cosa che mi è piaciuta di più, la citazione di Stefano Taschei, il piccolo ebreo italiano di 2 anni ucciso nell'attentato alla sinagoga nel 1982, perché è un paese in cui la politica fatica spesso anche a citare Israele e gli ebrei. E la cosa che mi ha invece colpito un po' negativamente è il fatto che parole come mercato, concorrenza, produttività, competitività, zero citazioni nel discorso del Presidente, peraltro istituzionalmente molto ecumenico, e quindi è piaciuto molto, grandi srotolamenti di lingua, ma è giusto così. Invece vado al tema della giornata, se mi consentite. Sapete che in queste ore è a Roma il ministro dell'economia e delle finanze greco del governo di Siriza, che ha vinto le elezioni e sia pur toppando per 2 seggi la maggioranza assoluta prevista per fare un governo, si è alleato poi con un partito di nazionalisti anti-euro molto di destra, e il governo dell'economia è Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis è in giro per l'Europa dopo essere stato a incontrare il cancelliere dello scacchiere a Londra. Si è incontrato poco dopo ora di pranzo, ha pranzato con il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, e oggi pomeriggio, insieme al ministro degli esteri della Grecia, si incontra alle 17 con il nostro presidente del Consiglio. Si terrà poi dopo, quindi un'ora e mezza dopo la fine della nostra trasmissione, una conferenza stampa con Renzi, Varoufakis, il ministro degli esteri greco. Vi chiedo delle opinioni su questo. Vi chiedo delle opinioni, innanzitutto, da quello che avete capito, bisogna fare come chiede la Grecia? Prima domanda. Seconda domanda, ma voi avete capito davvero che cosa chiede la Grecia? Perché loro hanno vinto le elezioni, questo immagino più o meno molti di voi lo sappiano, lo ricordino, chiedendo esplicitamente l'abbattimento del 50-60%, dell'80% dei loro titoli attuali di debito pubblico, che sono cioè quelli detenuti non da privati ma da istituzioni e paesi dell'euroarea. Analogamente, come era già avvenuto nel 2011-2012, quando ci fu un haircut, come si dice in gergo tecnico, un taglio di capelli, cioè un abbattimento del valore rispetto al nominale di pari importo dei titoli detenuti allora dai privati, risparmiatori e banche private. Ecco, questo è ciò su cui hanno vinto le elezioni, insieme poi a un vasto programma di ritorno alla spesa pubblica, su cui immagino abbiate letto sui giornali: si ritorna alle assunzioni, si ripristinano le tredicesime, si torna ad andare in pensione prima, si paga la luce gratis a 300.000 famiglie e così via. Però il nocciolo duro del loro programma era l'abbattimento del debito detenuto dagli euromembri. Ricordo a tutti che l'esposizione italiana tra quella diretta e quella, le quote di finanziamento agli strumenti che detengono i titoli greci, cioè FSF e SM, è di poco superiore ai 40 miliardi, però sono 40 miliardi. Allora, di fronte a questo, voi eravate favorevoli all'abbattimento, però piccolo particolare. Avrete capito, immagino, ma tenteremo di spiegarvelo oggi, che in realtà sono passati pochi giorni dalla trionfale elezione applaudita da tanti in Europa e moltissimi in Italia come finalmente la svolta che darà la spallata all'Europa del rigore, ed ecco che nella realtà scopriamo che Syriza, Tsipras e Varoufakis nella realtà stanno chiedendo altro. Perché a Londra, e da Londra, si è avuta una conferma di un'intervista resa anticipatamente dal Financial Times del ministro Yanis Varoufakis, in cui nella realtà non si chiede più l'abbattimento di quell'enorme ammontare di titoli del debito pubblico attuale greco detenuto dai paesi dell'euroarea, ma si chiede un cambio di tipologia di quei titoli del debito, quello che in gergo tecnico si chiama uno swap, uno scambio, sostituire alcuni di quei titoli che per via degli enormi aiuti avuti dalla Grecia nel 2011-2012 già hanno una durata lunghissima. Tenete conto, più di 16 anni la duration media dei titoli attuali del debito pubblico greco rispetto ai 6 e 7 mesi che è la duration dei titoli del debito pubblico italiano, questo grazie agli aiuti e alla ristrutturazione avvenuta del debito pubblico accompagnando il default e il taglio del valore nominale di tutti quei titoli invece che erano detenuti dai privati. E la Grecia adesso chiede in realtà non più l'abbattimento ma una sostituzione dei titoli in essere. Una sostituzione con due diversi tipi di titoli del debito, uno un tipo collegato nei rendimenti, nelle cedole che si maturano nel tempo, all'andamento del PIL greco, quindi se la Grecia non va bene, non paga interessi, quanto più andrà meglio e prima andrà meglio ovviamente più pagherà interessi, e poi una seconda tipologia che sono i cosiddetti perpetual, cioè quelli che non hanno scadenza temporale, fatti apposta per non essere restituiti nel totale del capitale ma solo per cedole ridotte. Questo è quello che a oggi sembra chieda la Grecia. Voi cosa pensate? Che bisogna dire di sì? È nostra convenienza, ma soprattutto conviene a tutti, e questo è il modo per dare la spallata a un'Europa molto indietro nei meccanismi di cooperazione politica. Terza domanda, ma non è che siamo invece in presenza di un classico, del populismo che vince promettendo mari e monti e poi nel giro di pochi giorni chiede invece cose molto diverse da quelle su cui si sono vinte le elezioni? Perché se fosse vero questo ci sarebbe anche una lezione per l'Italia, visto che anche in Italia non è che scarseggino i politici e i cosiddetti tecnici che da destra e da sinistra dicono usciamo dall'euro da soli, ma sì, cosa vorrete che sia, ci becchiamo una svalutazione, il vincolo dei capitali per qualche mese e va bene, gli italiani si indeboliranno ulteriormente nel valore medio del loro patrimonio, ma poi dopo questa botta mai voglia come ve leggiamo bene con la svalutazione della moneta col nostro export, dimenticando che c'è un'enorme gara internazionale a svalutare di tutti i paesi e che già i fenomeni di instabilità per questo sono molto forti, perché tutti credono di fregare gli altri svalutando, ma peccato che stanno svalutando tutti in questo momento, o quasi, c'è solo il dollaro che risale, e anche questo è un problema di stabilità finanziaria, perché ci sono un mucchio di paesi emergenti che crescono meno di prima grazie ai loro problemi e ai loro squilibri, che rimangono poi con trilioni di debiti denominati in dollari e con la loro valuta dall'altra parte che vale molto meno. Ma detto tutto questo, a me interessa capire che cosa avete capito voi, che cosa pensate voi. È giusto così? Cioè bisogna promettere mari e monti per fare un passo in avanti di realismo nell'euroarea, oppure promettere mari e monti se poi invece si chiede un'altra cosa è semplicemente un modo che leva credibilità anche poi a chi chiede grandi passi in avanti verso un'Europa più cooperativa? Ecco, solo questi alcuni degli interrogativi, quindi mi va bene qualunque opinione vostra, telefonate, ma nel frattempo abbiamo un ospite che si occupa di finanza nella vita, finanza dei mercati e investimenti, ma anche rispetto ai proventi, per così dire, che lui investe di finanza pubblica, perché è alla testa del fondo di investimenti dell'Oman, e quindi è con noi Fabio Scacciavillani. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a te Oscar e agli ascoltatori. Allora, a tutta questa congerie di domande io inizio a fartele anche a te nell'ordine. Nella tua valutazione conviene all'Italia e all'Europa dare retta al piano A di Syriza oppure al piano B, e tu come giudichi entrambi? Ma io vorrei fare una piccola chiosa innanzitutto. Quest'idea delle obbligazioni legate alla crescita del PIL nominale, sapete da dove viene? Viene dagli odiatissimi tedeschi. C'è stato un posso citare insomma la fonte, ed è il bollettino di settembre dell'Istituto di Previsioni Economiche tedesco, che insomma nella sigla è IPU, che parla esattamente di questo GDP linked loan forecast. E questa idea quindi non è un'idea nuovissima, è un'idea che si è dibattuta e dal mio punto di vista segna un'inversione di tendenza nella retorica di Syriza. Uno vorrebbe maliziosamente sottolineare che le elezioni sono il momento in cui si cerca di forzare l'avversario, poi quando si vincono le elezioni bisogna forse per gli elettori che hanno votato, e qui siamo nella fase, diciamo così, in cui il governo Siria ha capito che non può forzare la mano e quindi ha cercato questa soluzione che tutto sommato può essere una soluzione su cui si può ragionare. Ora, come al solito, il diavolo si nasconde nei dettagli. Perché? Perché io quello che suggerirei non è tanto di legare queste obbligazioni all'incremento del PIL nominale della Grecia, io lo legherei all'incremento del PIL nominale però per il settore privato. Altrimenti diventa un incentivo a far crescere la parte, diciamo, meno efficiente dell'economia e quindi a fare un implicito abbellimento dei conti che dal mio punto di vista non sarebbe desiderabile. Diciamo che il sospetto di Fabio Scacciavillani è comprovato dal fatto che un'altra delle richieste della versione B di Syriza nel suo tour europeo è quella di alleviare di molto l'impegno annuale di avanzo primario che era previsto nel programma di assistenza della Commissione Europea, BCE, Fondo Monetario, nota come la famigerata Troica. E il governo chiede di far scendere l'obiettivo di quell'avanzo primario da 4% del PIL annuale all'1,5, cioè chiede in realtà di avere 3 punti di PIL ogni anno di spesa in deficit in più, e questo ovviamente servirebbe subito a far crescere l'economia. Naturalmente in un paese che ha il debito che è tornato al 175% del PIL malgrado l'enorme abbattimento di valore del 2011-2012, è come dire, cari ragazzi, tutte le regole europee mettiamocele in tasca, e quindi da questo punto di vista non è un sospetto infondato quello di Fabio Scacciavillani. Stiamo pur sempre parlando di un paese i cui errori non sono responsabilità ovviamente dei greci, ma che ha approfittato nei primi 8 anni di bassi tassi di interesse dell'euro persino più dell'Italia, il che è tutto dire, facendo un aumento incredibile della spesa corrente e quindi facendo aumentare del 50% il suo debito pubblico rispetto a quando era entrato nell'euro, confidando sul fatto che tanto si sarebbe sempre pagato bassi tassi di interesse, e poi ha mentito sul deficit nell'ordine di quasi 10 punti di PIL, e lì esplose la crisi dell'euroarea tra fine 2010 e inizio 2011. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:46, primi 45 secondi. Nella pausa, per così dire, tra l'incontro con il ministro Padoan e quello che avrà alle 17 con Renzi, del ministro dell'economia greco, del nuovo governo dopo le vittorie alle elezioni di Tsipras e di Syriza, ci stiamo chiedendo se questa seconda versione, in pochi giorni, delle richieste greche, non più l'abbattimento dell'80% del valore del titolo del debito pubblico detenuto dall'euroarea, bensì un cambio del caratteristiche di questi titoli del debito pubblico, con uno swap, uno scambio con alcuni titoli, una buona parte di questi titoli agganciati nei loro rendimenti all'andamento del PIL, e abbiamo fatto un'osservazione con il nostro ospite sul fatto che non deve essere il PIL nominale, quindi non è che conta tanto l'inflazione, perché significa tornare a spendere molto, anche se questa è un'altra richiesta di Syriza, e poi i cosiddetti perpetual. Allora, la domanda che io devo fare è rispetto a Scacciavillani, come esperto di mercati finanziari: ma chi sostiene, io sono tra quelli, ma mi metto in fondo alla gara dell'autorevolezza, che in realtà quando il governo greco dice abbiamo tempo fino a luglio per un programma, e dall'altra parte guarda l'operatività sempre più ristretta delle banche greche, perché ci sono stati ritiri dei depositi, perché ovviamente non si possono finanziare sui mercati e così via, la realtà è che la Grecia, da questo punto di vista, quanto tempo davvero è? Sappiamo che la Grecia non ha bisogno di emissioni di debito pubblico quest'anno, ma l'operatività del suo sistema bancario, che ha perso equity a decine di punti dopo le elezioni e ha visto questi ritiri consistenti dei depositi, nella sua valutazione, Scacciavillani, quanto tempo dà ad Atene, visto che senza banche operative, anche se non hai titoli pubblici da piazzare, ti trovi poi gambe all'aria molto rapidamente? Dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, dipende dalla Banca Centrale Europea, perché sostanzialmente quello che è stato detto è che se alla fine di febbraio il governo greco rinnega gli impegni presi con il Fondo Monetario Internazionale e le istituzioni europee, verrebbero la Banca Centrale Europea non accetterebbe più le obbligazioni del governo greco come collaterale, e quindi le banche greche non riuscirebbero più a finanziarsi. Quindi verrebbe sospesa, lo dico a chi ci ascolta, verrebbe sospesa l'operatività di quello che in gergo tecnico si chiama ELA, cioè che è lo strumento di liquidità attraverso la quale la Banca Centrale Europea assiste appunto le banche dei diversi sistemi nazionali, che a quel punto sono a corto di collaterali e hanno a quel punto problema di liquidi. E quindi sabato è stato il capo della banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, a dire che in caso di mancato rispetto degli impegni la banca centrale non avrebbe più accettato questo collaterale, per cui è questa la vera pressione che sta. Quindi hanno quattro settimane, greco, quindi... parole povere, quattro settimane, anzi è inutile che ci dicano, neanche, diciamo la verità. Allora, in tutto questo il comunicato finale dell'incontro con Padoan è un comunicato, cari ascoltatori, a bottonatissimo. Sapete che c'è stato un colloquio tra Renzi e Merkel domenica scorsa, ieri portavoce di Berlino hanno ribadito c'è una piena unità tra Renzi e Merkel. Sapete che Schäuble nei giorni scorsi ha detto io di abbattimento del debito non ne voglio neanche sentire parlare. Schäuble incontrerà Yannis Varoufakis giovedì prossimo, vedremo. Nel frattempo questo ha già fatto sparire la richiesta di abbattimento del valore dei titoli, e come vedete stiamo parlando d'altri. Però vi sottolineo solo che nella cartella di comunicato di Padoan c'è una generica, per così dire, espressione di condivisione di interesse comuni, e questo interesse comune, vi leggo, è: entrambi siamo convinti dell'importanza che la Grecia si collochi su un sentiero di crescita forte e sostenibile attraverso un chiaro programma di riforme strutturali. punto, cioè non c'è alcuna concessione ad alcuna richiesta. Vedremo quale sarà la posizione che invece esce dopo l'incontro con Renzi. Prima di tornare da Scacciavillani con un altro paio di domande un po' più pepate, sentiamo intanto voi come la pensate. Ci sono alcune telefonate, cominciamo con Leonardo da Bari. Prego Leonardo. Buonasera. Voglio dire questo. Io penso che l'Europa, la Germania non potrebbe concedere né una riduzione del debito né una risoluzione degli interessi, perché se lo cominciamo a concedere alla Grecia, poi a cascata dovranno concedere anche ad altre, in particolare alla Germania. Però nel contempo non si può non tenere conto che certi paesi non saranno mai in grado di restituire il debito che li soffoca, anche perché le politiche di riduzione del debito sono antitetiche alle politiche di riduzione della disoccupazione, cioè o fai una cosa o fai l'altra. E un paese afflitto sia da alta disoccupazione che da alto debito non riesce a fare entrambe le cose. Quindi in qualche modo il debito dei paesi indebitati e afflitti da alta disoccupazione va affrontato in qualche modo. Lei richiama il noto problema per il quale un paese per il quale l'onere degli interessi del debito pubblico è superiore all'andamento del PIL nominale finisce per avvilupparsi in una specie di crescita inevitabile ulteriore del debito pubblico. In tutto questo io faccio notare a tutti che nessuno fino a questo momento parla di produttività e competitività, cioè noi ci stiamo abituando a considerare l'eurocrisi come se questo problema non esistesse, e questo problema ne abbiamo distissima opinione, ultima ruota del carro, è invece fondamentale, capite? Cioè fondamentale. Noi come Italia abbiamo un problema che viene prima dell'euro, preesiste all'euro e che dobbiamo risolvere qualunque sia l'esito dell'euro. So che molti di voi pensano invece che la colpa è solo dell'euro, basta uscire dall'euro e si risolve tutto. Se noi guardiamo il CLUP, costo lavoro per unità di prodotto, e facciamo base 100, quello del 2000, dal 2000 al 2014 in Germania è salito del 15%, in Italia è salito del 44%. Ecco, questo è solo uno degli indicatori di competitività comparata. Ma se tra 2000 e 2014 l'andamento del PIL vede Italia zero di variazione, noi siamo tornati indietro al 2000, alla fine del 2014, e l'unico paese a condividere lo zero è la Grecia, mentre nel frattempo la Spagna, con tutta la botta che ha avuto e la disoccupazione doppia della nostra, tra 2000 e 2014 è più 23% e l'Irlanda è più 42%. Ecco, questo problema, come vedete, è indipendente dalla crisi che abbiamo attraversato, che ha ragioni diverse in ogni paese, ma si spiega con questa piccola questione: la produttività, che invece sembra essere totalmente nell'angolo e che secondo me invece è fondamentale. Per questo non mi piace troppo chi pensa di risolvere tutto con la componente nominale dell'economia, cioè con l'inflazione, ci vuole quella reale. Nicola da Bari, come la pensa Nicola? Complimenti per la trasmissione Giannino. Pronto? Sì, vada. Senta, lei ha ragione, ha perfettamente ragione. Bisogna vedere ormai gli stati come delle aziende. È finita l'epoca del pubblico, della banca centrale, eccetera. Ormai delle aziende che devono stare in attivo, devono camminare con le loro gambine. Io sono d'accordo per... Nicola, lei è una minoranza assoluta. Qui oramai sono tutti a favore del QI, delle banche centrali, del fare i miracoli con le monete. Quindi, sa, destra e sinistra, in Italia oramai è la gara a chi le spara più grosse, quindi... Se si vogliono illudere, rimanga l'illusione. Però ormai il dato oggettivo è quello: siamo delle aziende, gli stati ormai sono delle aziende, ci sono delle entrate e delle uscite, e noi dobbiamo stare in quel solco lì. La Grecia, sì, sono d'accordo per allungare il debito, perché l'Italia dalla Grecia mi sa che è creditrice per 40 miliardi di euro, giusto? A prenderli quei soldi, se la Grecia dichiara fallimento, eccetera, noi quei soldi là ce li scordiamo. Preferirei allungare il debito, forse allora, si torneranno. Perfetto. Allora, chiarissimo quello che pensa Nicola. Vi devo chiedere di essere più rapidi in opinione. Dimitri da Parma, prego Dimitri. Dimitri? Sì, pronto? Rapido, come la pensi? Sì, pronto? Sì. Mi sente? Sì, sì. Vada. Ma niente, io praticamente sono ovviamente dal nome di origine greca e anche ingegnere, no? Sì. Ecco, dico le due cose perché sono anni, no, che sento questo problema della Grecia, la Grecia vista come minaccia all'area euro, così. Sì. Io mi sono sempre chiesto, ma un paese fatto di sì e no 10 milioni di abitanti, dove c'è un'economia inesistente ma per cultura, perché la Grecia è stato un paese fino a pochi anni fa mantenuto da Dimitri, date le premesse, ci stanno sfumando, questo è il problema. E allora io però Fabio Scacciavillani me lo riprenoto che dobbiamo tornare, è un problema troppo importante per non l'aver risolto con le altre domande. Continuate con la domanda.